E allora ci siamo dimenticati del tacco del Duca. Il tacco del Duca questa volta è direttamente dalla piazza. E allora ci sei? Ti sento, vai. Sono io che sento poco. E allora parla liberamente, noi ti ascoltiamo. Allora, niente, io ora sto andando via dalla manifestazione, in questo momento sono ritornato verso dalla piazza, verso Emanuele Filiberto. C'è un botto di gente che è scesa in piazza rivendicando l'acqua frizzante, l'idrolitina, il diritto all'idrolitina. Ossia, che cos'è il diritto all'idrolitina? È quella di mettere a fianco ad ogni fontanella pubblica un distributore di bustine di idrolitina per rendere frizzante l'acqua. Questa almeno era la rivendicazione della componente più radicale del corteo, rivendicava lo spessore più radicale del corteo, rivendicava il diritto all'idrolitina. L'idrolitina che è stata una delle cose fondamentali con cui sono cresciute tutte le generazioni del secondo dopoguerra. Siamo cresciuti con l'idrolitina e fino a quando noi bevevamo l'acqua con l'idrolitina e ogni mattina le nostre nonne o le nostre mamme riempivano le bottiglie di vetro vuote dell'acqua del rubinetto o della fontanella e la svuotavano con le bustine dell'idrolitina, quella è stata una sacca di resistenza prima dell'invasione delle acque di lusso stile la Perrier, che dagli anni 80 hanno egemonizzato il mercato dell'acqua. Su questa piattaforma qui di ritorno all'idrolitina, che almeno che una componente radicale del corteo si è espressa, e io mi sono trovato d'accordissimo con loro. Ecco, questo è uno dei punti più, secondo me, più importanti e salienti del corteo. Al di là che c'era tantissima gente, da quello che fuori dal parco pare che la questura ha detto che c'erano solo 1000 persone al corteo. E come 1000 persone? Niente, penso che la cosa più importante sia questa qui, di ritorno all'acqua frizzante, all'idrolitina contro la Perrier. Anche contro le acque in bottiglia in generale, cioè della serie l'acqua anche frizzante ce la facciamo in generale, da soli. Ma allora perché pure si usava ai tempi, negli anni 60-70, le famiglie l'idrolitina? Eravamo costretti, esattamente dalla massiccia pubblicità che c'era, dove quando eri bambino per forza la Sangenini, a un certo punto non eri più bambino e a quel punto già avevi problemi alle vie urinarie ed eri costretto a comprarti la Fiuggi. Ma io mi ricordo proprio la gente proprio che andava e si comprava cassette intere di acqua Fiuggi, di Sangenini per i bambini. Una cosa, guarda, veramente, è una cosa veramente indegna, i soldi, anche in città come Roma, che l'acqua è buonissima, i soldi che i tempi delle famiglie spendevano per quella cazzo di acqua minerale in bottiglia. Perché adesso era un business di quelli mostruosi. Senza contare che, per dire la Fiuggi, a un certo punto la gente della certa età non solo con problemi alle vie urinarie, mi ricordo ancora il Scarosello, che beveva la Fiuggi perché pare che bevendo l'acqua Fiuggi tu dimostravi 20 anni di meno. Questo che diceva la pubblicità della Fiuggi, e la gente si credeva che bevendo Fiuggi restava giovane. Voi rendetevi conto, avevano spacciata per un elisir di lunga vita la Fiuggi. Senti, tu a che punto del corteo? Ah no, se ne andando via dal corteo. Adesso che sto andando via, ero arrivato lì davanti al Cinema Roja, alla via Emanuele Filiberto. No, sono stato pure tutto, sono arrivato che stavo davanti, dove c'era il camion del forte che stava quasi alla testa, subito dietro i sindaci stava il camion del forte della torre. Io ho fatto il corteo a quell'altezza lì, perciò sono arrivato subito in piazza. Penso prima delle 5 sono arrivato in piazza. Anche perché è stato portato anche proprio a simboleggiare questa ripubblicizzazione dell'acqua, un nasone, un grande nasone. Aspetta che non si sente bene. Pronto? Pronto? Dimmi. Sì, mi senti? Proprio per simboleggiare la ripubblicizzazione dell'acqua è stato portato in piazza anche un grande nasone, no? Che voleva un po' simboleggiare, no? le fontanelle di Roma, che in molti quartieri le fontanelle di Roma vivendo, che sono buonissime, per quanto non ci farà più l'acqua marcia, sono rimaste poche quelle dell'acqua marcia, ma le fontanelle di Roma sono ottime, per quanto però hanno sempre per anni sparato questa grande cazzata che l'acqua di Roma contiene una cifra di calcio e fa male a quelli che stanno i carcoli, o ripeto, sempre problemi alle vie urinarie. A me mi sembra tanto una grande cazzata, perché veramente uno dei posti dove c'è l'acqua veramente più buona così, eppure per costringere a comprare l'acqua in bottiglia ti dicono che è piena di calcio e che perciò se c'è una certa età ti fa male. Va bene, noi ti ringraziamo e buon ritorno. Buon ritorno e niente, invitiamo tutti a ritornare a bere l'acqua con l'idrolitina, fatela da soli l'acqua minerale, come si faceva un tempo. un modo. Ok, ciao. Ciao, ciao.